Mix 24 di Giovanni Minoli. Ad Agrigento siamo stipati in tre persone in celle per un solo detenuto. La mia cella del carcere Ucciardone è grande 6 metri quadri e siamo in tre. Una volta scontata la mia pena mi butteranno per strada. È così che si aiuta un ragazzo. Le condizioni igieniche sono al limite dell'indecenza. Sembriamo degli zombie e non degli esseri umani. Sono tossicodipendente e proprio per questo ho commesso piccoli reati. Ho chiesto di scontare la fine della pena in una comunità che si è offerta di darmi un lavoro e una casa. Vorremmo avere prodotti per pulire le nostre celle, invase dalla sporcizia. Vorremmo chiedere al direttore di rimediare un pochino allo schifo nelle stanze dove facciamo la doccia. I materassi sono pezzi di gomma piuma, gli angoli sono strappati e usati per pulire i sanitari. Al direttore del carcere di Agrigento non vogliamo chiedere la luna, ma solo di poter indossare i giubbotti per affrontare la fine del freddo invernale. Sai quanto ci fanno lavorare qui, nella colonia agricola di Isili? Solo 4 ore al giorno, del tutto insufficienti a fare qualsiasi cosa. E 2 ore d'aria ci sono concesse in uno spazio esterno di 30 metri quadri per 30 detenuti. Viviamo in celle sovraffollate e non esiste nessuna attività rieducativa. Ci sono detenuti sieropositivi che non possono fare nessuna terapia perché non c'è un medico specializzato. Si può chiamare questa pena? Nicola Boscoletto, responsabile della cooperativa Giotto, che segue i laboratori professionali del carcere di Padova, compresa la gestione delle cucine e dei pasti per i detenuti. Ecco, quest'ultimo servizio esattamente in cosa consiste? Consiste nella preparazione dei pasti, colazione, pranzo e cena, di tutti i detenuti del carcere e delle 10 carceri in cui 10 anni fa è stato avviato questo processo sperimentale di trasformazione di questo lavoro che è trattato con i lavori domestici, con le mercedi del 1993, in maniera professionale, formandoli, insegnandoli un lavoro e inserendoli al lavoro all'esterno. E quanto costa? Costa il dipartimento ci paga all'incirca 1,54 € a giornata alimentare, quindi per preparare una colazione, un pranzo e una cena, escluse le materie prime, 1,54 €. E quanti carceri usano questo modello? Su 205 è partito in 10 carceri, sono passati 10 anni. I risultati sono inequivocabilmente positivi in termini economici, cioè di risparmio di soldi per lo Stato. E quanti sono i carceri allora che lo usano? 10 su 205. E voi con quali figure professionali affiancate i detenuti? Sono dei maestri chef, maestri di cucina, cuochi che insegnano a partire dalle norme igienico-sanitarie, l'HACCP, la qualità, come si preparano i pasti. Adesso, Boscoletto, adesso però il Ministero della Giustizia, se ho capito bene, ha deciso di bypassare le cooperative e assegnare il servizio direttamente al carcere, così? Tornando alla vecchia maniera come lo è nelle altre carceri, con una gestione diretta, senza nessuna competenza, conoscenza delle norme igienico-sanitarie, della formazione, della qualità. Ma è sostenibile questo? Assolutamente no, oppure è tutto sostenibile se non si guardano i risultati, se non si guarda il risparmio economico, se non si guarda il risultato dal punto della sicurezza sociale, cioè che queste modalità restituiscono i detenuti recuperati e non più cattivi di prima che tornano a commettere più reati. Ecco, ma come si può rispondere al Ministero? Voi cosa intendete fare? Allora, prima di tutto noi non ci crediamo, non crediamo sia possibile una cosa del genere perché è talmente evidente a un bambino delle elementari che la cosa è positiva, che crediamo che sia semplicemente un annuncio sull'onda dell'emotività di Mafia Capitale. Ma speriamo di no, perché sarebbe irragionevole, perché come dire che se arrestano un carabiniere tutti i carabinieri sono ladri. Mi sembra questo che sarebbe proprio un uso scorretto. Quindi della da una parte non ci credete, ma dall'altra parte avete organizzato per una risposta collettiva se fosse vero? Sì. Sì, abbiamo prima di tutto chiesto urgentemente per la terza volta un incontro con il ministro, con il capo di gabinetto Giovanni Melillo, con il nuovo capo del DAP Santi Consolo e con il vice capo Mauro Palma. E la risposta? La risposta non è ancora venuta. Noi speriamo che arrivi. Vabbè, perché proveremo anche noi a sentirli e vediamo un po' se riusciamo ad affrontare questo problema con la ragionevolezza che deriva dalla valutazione dei fatti concreti. Salvatore Pirruccio, direttore del carcere Due Palazzi di Padova. Il Ministero di Grazia e Giustizia ha deciso di tagliare i fondi alla cooperativa che gestisce la mensa. Adesso come farete? Ma intanto che abbia deciso di tagliare i fondi io non ne sono a conoscenza, non ho alcuna notizia. Ah, non ci sono notizie ufficiali? No, io non ho nessuna notizia, siamo in attesa delle comunicazioni circa la proroga oppure no. Ma di questo però ne io ha sentito parlare? Sì, certo, ma allo stato attuale non posso dire, non so. Ah, ho capito. L'unica cosa che posso dire invece è che noi, per parte nostra, diciamo come direttori, auspichiamo che il servizio continui, in qualche maniera si riesca a sistemare nella sua prosecuzione, perché porta dei benefici ai detenuti, formandoli nel settore. Ecco, ma se dovesse restare o se fosse vera questa decisione, dottor Pirruccio, come fareste? Faremo come si faceva fino a 10 anni fa, nel senso che i detenuti della cucina, che attualmente sono dipendenti, lavoratori dipendenti della cooperativa, diventeranno lavoratori, detenuti dipendenti dal Ministero di Giustizia, e noi faremo fare il lavoro in cucina e li retribuiremo secondo le tabelle attualmente in vigore. Ecco, ma finora il vantaggio della gestione da parte della cooperativa qual è stato, dottor Pirruccio? Ma intanto c'è la formazione. Certo. La ditta ha sempre assicurato una formazione, poi l'inserimento nel mondo del lavoro, prima interno e poi, quando è possibile, all'esterno. Noi la formazione la potremo fare soltanto se gli enti locali, esempio regione, provincia, comune, anzi province, ma il comune, finanziassero, come si faceva anni fa, dei corsi di formazione di cucina, ma allo stato attuale naturalmente non ce li abbiamo. Ecco, ma i costi sarebbero diversi? Certo, le tabelle ministeriali delle retribuzioni sono inferiori, sì. Senta, ma avreste il personale sufficiente? Perché poi deve essere gente qualificata che forma, perché se no non si capisce come si fa. Ma dunque, allo stato attuale chiaramente i detenuti che oggi sono in cucina resterebbero in cucina a lavorare. Nel tempo bisognerà formare altre persone, e per quanto riguarda il problema della formazione vale quello che ho detto poc'anzi, che occorre che un ente locale in genere faccia fare qualche corso di formazione. Dottor Pirruccio, lì nel vostro carcere Due Palazzi di Padova si producono anche prodotti che vanno sul mercato, la formazione porta a un'alta incidenza del reinserimento sociale dei detenuti, o sbaglio? Ma la formazione è importante perché il detenuto non solo lavora all'interno, così diciamo, alle dipendenze di uno chef, di un capocuoco, certo, perché, ma acquisisce quelle professionalità che sono a lui necessarie, o comunque diciamo che sono utili, un domani, quando dovesse accedere con una misura alternativa all'esterno e poi quando ritornerà in libertà, gli sono utili perché ha una professione, ha imparato un mestiere. Ecco, e questo imparare un mestiere rende più facile il reinserimento e più difficile la recidiva? Certamente. Il reinserimento, avete dei dati? Non è che sia facilissimo, però è un po' più semplice. Ma avete dei dati sulla diminuzione della recidiva? No, dati ufficiali non ne abbiamo. L'unico dato ufficiale è la recidiva in generale, che si aggira intorno al 68%, ma quello è un dato generale. Beh, certo, non conta. E chiaramente chi fa un percorso trattamentale rieducativo ovviamente ha più possibilità di reinserimento e di conseguenza meno possibilità di recidiva. Ecco, come direttore, un'ultima cosa, dottor Pirruccio, come direttore di carceri vi siete sentiti per avere un'azione comune nei confronti del Ministero o no? Ma abbiamo rappresentato al Ministero la situazione, certamente tutti quanti i direttori coinvolti abbiamo fatto presente la situazione attuale, poi il Dipartimento nostro ovviamente assumerà le proprie determinazioni. La nostra Marina Milone è andata a sentire che cosa si diceva all'incontro sulla finanza sociale promosso appunto da Confindustria della Comunità di San Patrignano. A Roma la Confindustria insieme alla Comunità di San Patrignano ha organizzato un dibattito, economia sociale di mercato e finanza sociale. Letizia Moratti, cofondatrice della Comunità di San Patrignano, così afferma. Sono convinta che noi abbiamo un problema di crisi strutturale, nata dalla crisi finanziaria, trasformatasi in crisi dell'economia reale. Non siamo più sostenibili da questo punto di vista e questo rischia di creare difficoltà di coesione sociale, quindi credo che debba essere un impegno di tutti nel trovare strumenti nuovi e soluzioni a questo problema. Marcella Panucci, direttore generale della Confindustria, qual è il vostro impegno come Confindustria per l'economia sociale? Oggi questa giornata testimonia il fatto che c'è un fortissimo interesse di Confindustria verso il tema dell'economia sociale e della finanza sociale. Sono moltissime imprese quindi che investono oggi nell'economia sociale attraverso iniziative di welfare nei confronti dei lavoratori, iniziative di sostegno dei territori, delle comunità locali, piuttosto che investimenti sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali. Il discorso parte da una dichiarazione della cancelliera tedesca Angela Merkel. Il continente europeo ha il 7% della popolazione del mondo, il 25% del prodotto lordo del mondo, il 50% delle spese per welfare state. Non possiamo andare avanti così. Parola di Angela Merkel. In questa frase ci sono le ragioni della politica di austerità della cancelliera. In poche parole, il sistema europeo, secondo la Merkel, è insostenibile. Il debito dei paesi G7 è cresciuto di 18 miliardi di euro negli ultimi 5 anni. L'Organizzazione Mondiale del Lavoro prevede 13 milioni di disoccupati in più entro il 2018 e soprattutto si tratta di giovani. È all'interno di questo quadro che si inserisce un nuovo movimento di innovazione sociale. In inglese si dice impact investing, cioè investimento con impatto sociale. Questo movimento ha sicuramente un padre fondatore che si chiama Ronald Cohen, fondatore di una banca di investimenti sociali e coordinatore di una task force istituita al G8. Negli ultimi anni stiamo vivendo una vera rivoluzione. Dal momento che abbiamo gli strumenti per misurare le performance sociali di un'impresa. Oggi, ad esempio, siamo in grado di valutare gli standard dell'istruzione. Possiamo misurare le prestazioni scolastiche e calcolare il numero dei senza tetto con estrema precisione. E inoltre possiamo sapere con esattezza il numero di carcerati che ritorna in prigione. Questo fornisce uno strumento nuovo per connettere azione sociale e profitto economico. E permette all'imprenditore sociale, sia che faccia del no profit, sia nel campo del profit, di accedere al capitale proprio come un tempo l'industria tradizionale lo faceva per massimizzare il suo profitto commerciale. Detto in parole semplici, oggi chi vuole fare del bene può fare molto. Lo chiamano terzo settore, economia sociale, o forse si tratta di una terza dimensione che si inserisce tra la mano invisibile del mercato e lo Stato. L'importante è che si produca, ma che il profitto abbia un impatto sociale. Ma in concreto di cosa parliamo? Che cos'è un'impresa sociale? Un'impresa sociale è un'impresa che sviluppa un modello economico sostenibile, quindi che è basato sulla vendita di prodotti e servizi, però con un impatto sociale, che tramite l'attività cerchiamo di risolvere uno dei grandi problemi sociali, che sia un problema di salute, di educazione, di disoccupazione. Era Nicola Hazard, vicepresidente di Group SOS, la prima impresa sociale in Europa che vanta 12.000 dipendenti e un fatturato di più di 750 milioni di euro con un impatto su più di 1 milione di persone. Ma ancora meglio forse lo spiega Paul Pollack, CEO di Windhorse International, un'impresa sociale che offre strumenti innovativi come impianti idrici a basso costo per persone che vivono con meno di $2 al giorno. Uno dei dirigenti della Ferrero, una delle più grandi aziende dolciarie del mondo, ha già realizzato delle piantagioni in India. Ora stanno lavorando in un villaggio in India dove la maggior parte dei bambini sono malnutriti e sottopeso e colpiti da malattie di vario tipo, come la cecità. I bambini amano le caramelle e i dolci. Ci sono 10 milioni di piccoli negozi in India che vendono dolciumi. Se la Ferrero producesse una caramella che contiene tutte le vitamine e i minerali che servono ai più piccoli, la Ferrero potrebbe non solo contribuire a diminuire la malnutrizione in India, ma potrebbe anche fare soldi e rafforzare il proprio marchio nel paese. Questo è un esempio di impresa sociale. Era Paul Pollack, autore di Come uscire dalla povertà. Altro principio chiave di questo movimento è che la crescita sociale stimola la crescita nell'economia reale. Inoltre c'è da dire che da qui al 2020 il 5% della spesa sociale dello Stato rischia di non essere coperto. Le aree dove sarà più necessario sviluppare servizi per rispondere ai bisogni reali della popolazione sono salute, disabilità, famiglia, emarginazione. In queste aree, che costituiscono il 20% del welfare, si inseriscono aziende come il gruppo SOS. Noi sviluppiamo, vendiamo per esempio dei servizi in ospedali per persone che hanno poche risorse, quindi apriamo i nostri ospedali a tutti, o strutture, programmi per gli anziani, quelli che vivono con meno di 800 euro al mese. E come quella di Enzo Manes, presidente di Dinamo. Facciamo fare vacanze a bambini poco fortunati, in questo caso sono bambini che sono ammalati gravemente, di malattie gravi e croniche, e gli facciamo fare dagli 8 ai 10 giorni di vacanze in un posto straordinario. Come si finanzia? Si finanzia con donazioni, vendita di prodotti, con un complesso che raccoglie oggi quasi 5 milioni di euro perché è capace di vendere un'eccellenza. Negli ultimi 10 anni, nonostante la crisi, il settore sociale è cresciuto del 28%, del 40% in termini di dipendenti. In Italia si calcolano più di 12.000 aziende tra imprese e cooperative. Ma quali sono gli strumenti che possono agevolare questo tipo di impresa? In due parole, si chiama finanza sociale. Letizia Moratti, esattamente cosa sono i social bond? I social bond che già nel nostro paese sono in vigore sono uno strumento semplice legato a dei progetti specifici che prevede che una parte delle commissioni bancarie sia devoluta a imprese o organizzazioni cooperative o organizzazioni non profit. Marco Morganti, amministratore delegato di Banca Prossima, il welfare del futuro quale sarà? Quello che mi immagino è che è più che immaginare, ne sono proprio certo, che il welfare universalistico, orgoglio dell'Europa e maggiore tratto distintivo dell'Europa rispetto a tutti gli altri sistemi nazionali e non, questo welfare può essere mantenuto tale, in certi casi perfino migliorato, se noi siamo capaci di favorire in ogni modo il transito, il passaggio da un modello pubblico a un modello di privato sociale. Sarà un sistema che costerà di meno le casse dello Stato? Sarà un sistema che esigerà qualche sacrificio in più per le famiglie? Questo purtroppo non è controvertibile. Però può essere un sistema che migliora le sue prestazioni rispetto al passato. Il welfare universalistico pubblico non ha mai pensato in Italia a fare una seria politica per gli asili nido. C'è moltissimo spazio per farlo. Il nuovo welfare, quello sostenuto anche interpretato con protagonismo dal terzo settore, sarà capace di creare un servizio semplicemente che non c'è. Ad agosto il governo Renzi ha esposto i contenuti del disegno legge delega per la riforma del terzo settore, annunciando un fondo di 500 milioni. Ministro Poletti, a che punto siamo con il fondo da 500 milioni? Noi abbiamo cominciato destinando 50 milioni di euro alla parte che fa riferimento al servizio civile. Naturalmente di qui a fine anno avremo oltre 30.000 giovani che partiranno e faranno questa esperienza del servizio civile. Poi stiamo lavorando ad un fondo di investimenti che veda la presenza di risorse pubbliche insieme a risorse di altre istituzioni economiche, in modo tale che, poiché si tratta di un fondo per partecipare al capitale e un fondo per finanziare, quindi un fondo rotativo, quindi non ci saranno finanziamenti a fondo perduto, pensiamo che questo possa essere. Riesce a darmi una cifra? Ma noi abbiamo previsto che ci sia una base di partenza di 500 milioni e naturalmente sarà composta da una parte pubblica, una parte di altri soggetti, e su questa base possiamo partire. Naturalmente io credo che per partire bastino anche meno risorse, perché abbiamo bisogno anche di sperimentarla questa possibilità, perché naturalmente è qualcosa di molto nuovo, molto innovativo, e quindi prima di essere certi che ci saranno progetti e programmi in grado di usare una massa così rilevante di risorse ci vorrà un po' di tempo, però questo è l'obiettivo. Cosa dovrebbe fare il governo per l'economia sociale? Ridurre diciamo i coefficienti di assorbimento di capitale, vale a dire una banca per prestare a un'impresa sociale deve accantonare, se presta 100 euro deve accantonare 8 euro di patrimonio, mentre se presta delle imprese ne accantona 6. Allora equiparare alle medie e piccole imprese il coefficiente appunto di assorbimento di patrimonio significa liberare delle risorse per investire nelle imprese sociali. Invece detrazioni fiscali, cose? Certo, anche detrazioni fiscali, quindi in particolare l'esclusione dei prodotti finanziari ad impatto sociale dall'aumento della tassazione degli strumenti finanziari, e quindi quello sarebbe estremamente importante. E a che punto è il governo? Su questo non c'è una decisione del governo. Io mi auguro che il governo, che sta mostrando di essere molto sensibile su questo punto, concordi con queste valutazioni e attivi degli strumenti concreti attraverso la legge delega. È altrettanto importante il fondo sociale che il governo ha deciso di stanziare e che ancora non è attivo per le imprese sociali, un fondo di 500 milioni di euro. Anche il patrimonio dei beni culturali italiani è considerato un elemento di impatto sociale, cioè anche la cura dei nostri monumenti può essere considerato un rendimento sociale. Parola di Dario Franceschini. Quello che stiamo facendo con le norme nuove, i nuovi incentivi fiscali sull'art bonus, ed è quello che stiamo cercando di far passare nel paese, un paese che ha il più grande patrimonio monumentale, culturale, artistico del mondo, ma che non è consapevole che non lo valorizza. Mi fa un esempio concreto di economia sociale applicata ai beni culturali, un esempio? Beh, per esempio la partecipazione di cittadini, come avviene in altri paesi, nel sostegno ad un museo o nel recupero di una grande opera d'arte, crowdfunding, e in secondo luogo la possibilità per un'impresa di avere una specie di certificazione, come ce ne sono in altri settori, certifico che quell'impresa nel suo, con una parte del suo bilancio contribuisce a salvare e aiutare il patrimonio italiano. Mix 24 di Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Claudio Costa, 73 anni, medico con 3 specializzazioni, il guru del moto mondiale, l'inventore della clinica mobile, croce e delizia di ogni campione, li ha curati tutti, corpo e anima, con passione e intelligenza. Il guru lascia, lo ha deciso lui, perché il tempo passa e contro il tempo si può lottare fino a un certo punto. Passa il testimone ai giovani che ha allevato come i grandi maestri di una volta, generosi e severi. Lui adesso scrive la sua passione, il libro che è appena uscito, Magic Markets, è un inno alla moto e ai suoi campioni e al giovanissimo supercampione che ha cambiato il modo di correre. Davvero, dottor Costa, lo ha cambiato il modo di correre? Sì, l'ha cambiato, perché ha portato il giovane pilota spagnolo, il Niño d'Oro, diciamo, a dimostrare che dentro a ogni campione, oltre l'anima del talento impastata di classe, di stile, c'è la follia, c'è una follia magica legata alle emozioni. Sì. E poi quello che stava facendo Valentino, grandissimo campione, ha avuto 4 anni di, diciamo così, dove è andato al cinema, è andato al cinema e non vedeva bene dove si doveva sedere. Ma mi dica la verità, è più forte Marquez o Valentino? Allora, devo fare questa, mi deve permettere di non rispondere con una risposta precisa, secca, numerica, aritmetica, geometrica. Valentino sta riscoprendo, e questa è la sua grande, diciamo, sorpresa, la sua grandezza. E nel momento che scopre la sua grandezza, che la sta scoprendo per se stesso e la sta donando a tutti quelli che sono i suoi appassionati, ma anche a tutti quelli che sono appassionati del motociclismo, si sta accorgendo che si sta emozionando. sera. Ha ritrovato l'emozione. E l'emozione può dare magie. Certo. Valentino è stato magico per tanto tempo. Adesso che io gli porto Magic Marquez, lui dirà, ma anch'io sono... Quest'altro anno lui dirà, anch'io sono Magic. Ecco quindi, la mia risposta. Quindi lui dice, gli ho preso le misure quest'anno. L'altro anno può darsi che lo batto. È possibile. Non è che ho imparato anch'io a andare sui cordoli. Sto imparando anch'io che quelle emozioni mi hanno spinto a diventare la leggenda che sono stato. E adesso le riscoprirò tutte. Insomma, ce la può fare, quindi. Certo, con le emozioni i miracoli sono alla portata. Senta, ma a Valentino durante la sua carriera gli è mancato un Marquez con cui confrontarsi per andare oltre il limite? Beh, ha incontrato grandi campioni, sì, è certo. Indubbio, però questo Marquez, essendo speciale, senti Giovanni, l'ha incontrato adesso. Ecco, il prossimo anno questo duello per il titolo, dottor Costa, sarà un duello all'ultimo sangue, all'ultima emozione? Sarà un duello all'ultima emozione, però non dobbiamo anche dimenticare che ci sono piloti. C'è un pilota grande che è Lorenzo, che è venuto da un inverno dove non sappiamo che cosa è successo e che cosa ha, diciamo, cosa è successo dentro a questo magnifico pilota, che è un pilota dalla guida perfetta e talvolta irresistibile, per cui nell'ultima parte del campionato si è già ridestato. Ora se fa un inverno da un letargo stavolta più favorevole, avremo un altro suo campione. Poi io ho una grande fiducia nella, diciamo, nell'estro e in quella che sono, diciamo, la generosità di Iannone, Andrea Iannone. Per adesso un po' discontinuo ancora. Senta. Beh, grandi acuti con Bassi. Se cancelli Bassi, anche lui si troverà là davanti a fare magie. Senta, dottor Costa, ma i piloti corrono contro gli avversari o contro se stessi? Contro se stessi, contro un demone che loro non conoscono molte volte bene, però sanno che c'è e lo devono sfidare, e sfidandolo sanno che questa è la vittoria più bella quando lo battono. Senta, nel libro lei dice: lasciare la mia clinica è stato come abdicare al mio regno. Era la mia vita, il mio significato, era la mia casa. Quando è che ha capito che era il momento di passare la mano? Beh, l'età è, diciamo, la scusa. L'età è la scusa, cioè la verità è che era troppo forte lei. No, troppo personaggio. La verità è che quando si aiutano questi piloti a ritornare in sella, e le posso dire che il difficile è portarli sulla moto, lì è diciamo, consisteva tutto il mio impegno e il mio aiuto, perché dopo, quando loro erano montati in sella, ci potevi uscire tu, Giovanni, facevi tu il miracolo. Dottor Costa, la clinica mobile, lo dice lei, è un mondo che sta prima della ragione, dove la follia è la vera saggezza. Cioè, io credo che prima dei 2000 anni di ragione, la follia era il nostro modo con cui affrontavamo la vita. Una vita, come ha detto lei prima, si nasce e si vive per morire, ci vuole una bella follia per affrontarla. E quella follia riempie la vita come la ginesta che espande profumo prima di essere incenerita, come dice Leopardi dal Vesuvio, produce talmente tante cose belle che fanno amare la vita degli esseri umani, anche se, diciamo, in una maniera tragica, si nasce, si vive, si muore. Sì. E quindi è nella grandezza del talento, delle nostre opere, che noi diamo dignità alla nostra vita. Ecco, nella clinica mobile c'è questa esaltazione. Ma è più matto lei o i piloti che cura? Ma credo che sia una bella battaglia, è come Valentino Marquez. Senta, quindi i dirigenti del mondo mondiale a un certo punto hanno detto basta sto guru. No, forse hanno cercato di rendere in molto più scientifico l'attività medica, sono arrivati più ragione e meno sentimento, più scienza. Sono arrivati degli specialisti, dei scienziati spagnoli, catalani di grande livello. Comandano gli spagnoli, ho capito. Comanda la scienza. Senta, ma fino a dove è possibile spingersi per accelerare il ritorno in pista di un pilota? In due parole, voglio correre. In questa irrazionale domanda di un pilota disteso sul lettino della clinica mobile ferito, mentre ci si sta indaffarando per cercare di curare, mettere insieme i coach e consolarli, metterli insieme e curarli. Lui dice voglio correre, quella è non la... chiede quando guarisco cosa mi succederà quando sarò... corro. voglio correre. Ecco. È in quella due parole che ci sta un flusso di emozione che va a chi cura e che poi lo traduci in una terapia quasi magica che lo porta sulla moto. E lì viene fuori la magia più grande, che lui troverà realmente il vero dottore, che non ha niente a che fare con il dottor Costa, che poi è un povero modesto artigiano che l'ha aiutato in clinica. Senta, dottor Costa, ma andare a 300 all'ora, sapere che il pilota al tuo fianco 24 ore prima era su un tavolo operatorio, ma non è una follia per tutti? Sì, è una follia per tutti. E ho spiegato tante volte che comprendo anche quelli che dicono questo, perché anch'io devo dire che nel libro spiego moltissimo questa cosa, cioè il prezzo che pago fino a che questo non arriva. Certo. Cioè non è che io sia un medico felice, sono un medico che ho vissuto in un dubbio dove ho cercato molte volte di trovare la forza per andarmene da quella condizione dove io, fino a che il pilota ferito non arrivava, quindi io stavo aveva paura di aver fatto male. Ecco, lei racconta, dottor Costa, racconta che per curare il famoso campione del mondo McDuane ha dovuto rapirlo. Beh, diciamo fra virgolette. Sì, naturalmente. Perché era in Olanda dove è stata fatta un'operazione, che nella notte erano in sorte terribili complicazioni che hanno minacciato non solo la gamba ma la vita di questo forte pilota. La gamba era stata complicata da un turgore terribile che gli impediva di vivere. E lei cosa ha fatto? Loro avevano già aperto questa gamba in tutte le loro logge e quindi pensavano di non aver risolto il problema e quindi proponevano l'amputazione. Duan chiama, io arrivo e dico no, qui non andiamo secondo questo programma, carichiamo Duan. Mentre usciamo dall'ospedale, Svans ricoverato per altre ferite ci vede, monta anche lui sulla barella, via in aeroplano, torniamo in Italia, uniamo con un ardito intervento chirurgico la gamba sana, quella malata, per cercare quella ferita, di trasferire un po' di vita, dargli un goccio di vita. Ma il terribile, Giovanni, sai cosa è stato? Che Duan non ha detto ok, ce la stiamo cavando, la gamba sana sta salvando la ferita, che è quindi un gesto di solidarietà simbolico bellissimo. Beh, a un certo momento ha detto tagliamo perché dobbiamo andare a correre, e così abbiamo fatto. E a quel punto vi devo dire, non sono stato un uomo felice fino a che Duan non è arrivato al termine di quelle due gare in Brasile e in Sudafrica. Mia, pazzesco. E dopo quanti mondiali ha vinto? Duan? 5. Ma senta, ma quindi a un pilota domani non corre non gliel'ha mai detto lei? No, non mi sarei mai permesso, perché non faceva parte questa filosofia. Ma è vero che le il pilota non correva se diceva non diceva voglio correre, il pilota non correva. Certo. Perché io non avrei mai avuto né la forza, né la possibilità, né la capacità, né la professionalità, né l'arte, no, di riuscire a convincerlo a correre se lui non aveva pronunciato quelle due parole. Certo. Quindi il merito è tutto loro. Io mi sono preso un bel po' di meriti da parte dalla loro grandezza. Senta, dottor Costa, ma è vero che per un campione le cicatrici si rimarginano più in fretta nel cervello che nella carne? Direi che si rimarginano più in fretta nel cervello che nella carne, ma praticamente sono praticamente immacolate nella loro anima. Dottor Costa, lei dice i piloti hanno conquistato la montagna incantata del coraggio per provare anche solo per un attimo, sono parole sue, la vertigine della felicità. Cosa vuol dire? La felicità credo che sia è difficile dire cos'è la felicità. Certo, proviamo a dirlo. È un attimo. È un attimo che capita quando noi non abbiamo più resistenza nel mondo, perché conquistiamo qualsiasi avversità, qualsiasi pericolo. Quando lo superiamo, resistenza cala. Non c'è la discesa dalla cima della montagna incantata del coraggio, ma ci sono solo le stelle del cielo. Senta, il giornalista Guido Meda, famosissimo, dice, molto mio amico, dice che lei è dalla parte della follia. Mi sembra vero. Sì, molto. Devo ammetterlo, confesso. Quindi lei spinge i piloti oltre il limite? No. Nel momento che il pilota dice voglio correre, siamo già oltre i limiti. Cioè lui va già oltre i limiti e io devo lavorare in quell'oltre dove lui, con le sue emozioni per tentare questa impresa impossibile, mi danno la forza e la capacità di avere quell'arte per permettermi solo questa possibilità, portarlo sulla moto, perché lì quando abbassa la visiera lui trova un altro dottore molto più bravo del dottor Costa che è dentro di lui. Senta, ma c'è qualche pilota che ha preferito non affidarsi a sto pazzo che lei? Sì. Lei un grande, Freddy Spencer. Ah sì, e lei ci è rimasto male? Non male, ho pianto. E passavo del tempo vicino alla porta del suo motorhome sperando che mi chiamasse, come Kafka nel castello. Ero lacrimensore che stavo aspettando la chiamata. Però perché non lo voleva? Perché non si fidava. Però ho avuto una grande soddisfazione, cioè? Perché dopo tanti anni, chiaramente Spencer ha seguito il mondiale, certo, anche no? Dopo essersi ritirato, certo, ha capito chi era il dottor Costa, e quando ci siamo incontrati c'è stato un attimo, non abbiamo detto niente, mi ha preso, mi ha abbracciato e mi ha pianto per 10 minuti sulla spalla. Mi ha restituito le lacrime. Senta, un fisioterapista che ha lavorato... Bravo, mi ha restituito le lacrime. Molte volte il mondo lo dovrebbe fare, questo, restituire le lacrime. Bravo Giovanni. Dicevo che un fisioterapista che ha lavorato con lei dice che a lei basta vedere il tipo di caduta per fare una diagnosi al 95% dei casi perfetta. Beh, un po' è perché sono sempre stato fin da piccolo a vedere gare di moto, e poi qui il dottore diventa bravo in questo senso: i piloti quando cadono corrono subito dalla moto, non è come nelle partite di calcio che rimangono molto a terra, che non riesci a capire come stanno le cose. Quindi tutti quelli che si rialzano, il corpo ha già fatto lui la diagnosi, tutto sta procedendo bene. Okay. Quando rimangono fermi, e allora sono pochissimi i casi fortunatamente, certo, e allora con la tua esperienza riesci a dire qual è la parte del corpo che si sono feriti, che loro in quel momento, rimanendo fermi, ti danno già, e quindi dal ti tipo richiamano di già, ti richiamano già al fatto che esiste una ferita, e quindi dal il tipo di della caduta, caduta ti dice dove può essere in quel corpo. Ah, quindi niente di straordinario. Vabbè, insomma, si è pentito qualche volta di aver dato semaforo verde a un pilota e fatto lasciato andare? No, perché qui sono abbastanza fortunato, devo confessarlo. No, non è che è andata bene, è che l'autorizzazione non la do io. Io il semaforo verde non lo do per il semplice fatto che io non avrei neanche il semaforo. Ah, va bene. Senta, dottor Costa, ma i piloti li farebbe correre tutti, ho capito. Senta, ma i piloti sono destinati a pagare nella vecchiaia l'incoscienza? Sì, me lo sono sempre chiesto. È una domanda molto profonda e intelligente. Adesso lo sai, no? Sì, lo so, perché avendone curati già alcuni mezzo secolo fa, ho le risposte. La risposta e qual è? Vedo che nel loro corpo le ferite sono diventate gioia e non fanno quelle cose, diciamo, quelle conseguenze che proprio compaiono nella vecchiaia. Le ferite sono compagne della vita. Rimangono compagne e, diciamo, rimangono giovani. Giovani ricordi di un simbolo, di un'avventura, di un'impresa che gli dà una condizione di benessere al corpo. Ecco, ma dottor Costa, a proposito di incidenti, lei che idea si è fatta di quello di Schumacher? Io di quello di Schumacher non so molto, perché non ho avuto documentazioni. Io spero solo che lui possa ritornare a essere l'eroe, e lo sappiamo tutti. Niente. Però in questo momento comunque vada, lo sa che cosa c'è di bello. Sì. Che lei me lo chiede oggi, ma vuol dire che è nel cuore di tanti, e in quel cuore che sta ancora vivendo molto bene, fulgido, sano, integro, Michael Schumacher. Mix 24. Dottor Costa, ma lei dice che il dolore è un amico, in che senso? Il dolore è un amico, se me lo permette lo posso anche spiegare. Abbiamo un grande dottore, Alessandro Zanardi. Alessandro Zanardi, lasciamo stare che la morte gli ha rapito il 15 settembre 2001 metà del corpo, e poi ha infierito, perché non, quella metà che è rimasta, 7 arresti cardiaci, e lui li ha risolti, superati. Li ha superati. Quando era in un campionato del mondo aveva le braccia che non funzionavano, non respirava, bruciore, un sentimento, mi scrive: Claudio, tristezza, me ne voglio andare a casa, cosa sto a fare qui, ho 48 anni, gli altri sono giovani. Però dopo mi è venuto in mente quello che mi hai detto sempre: se sei così tu, lo sono anche gli altri. Bene, chiudi gli occhi, gli avevo suggerito, e dopo 7 secondi ti accorgerai qualcosa di magico e meraviglioso. Ha chiuso quei 7 secondi gli occhi, ha ripreso, la chiama la metafora dei 7 secondi, ha vinto il mondiale, ed è stata la vittoria con la velocità nell'ultimo tratto la più veloce da quando lui ha corso in bicicletta. Personaggio incredibile. Quindi esiste una magia nell'oltre, dove il dolore diventa una medicina. Me lo telefonava quel giorno in cui Marquez, con la spalla ferita, volava cercando di battere Lorenzo a Silverstone, conquistando quei punti che poi gli hanno permesso di vincere. Ecco, ma la magia di Marquez qual è la differenza? Duan dice è andato oltre, un'altra cosa. Lo definisco velocemente: Marquez va sempre alla ricerca dell'oltre, è sempre in zona Cesarini, è sempre alla ricerca dell'avventura, del nuovo. C'è un centro superiore che lo spinge a questo. Nel momento che fa questo entra nella dismisura. A questo punto dovrebbe essere punito da tutti gli dei del cielo. Lui si salva perché a quel punto diventa misura di se stesso nella sua grandezza. Ma Rossi non ce l'ha sta roba? Certo che ce l'ha, lo sta facendo. Cavolo, Rossi quest'anno ha cominciato a dimostrare che anche lui vuole andare oltre la misura, perché è solo oltre la misura lui può combattere con Marx. Senta, dottor Costa, ma a 35 anni questo è segno di anche una grande umiltà, E anche una grande, diciamo, anche un grande talento smisurato, straordinario e speciale. Sì. Lei ha detto che il segreto della clinica mobile sono le mani. Che vuol dire? Credo che la mano sia il simbolo della tecnica. La tecnica ha salvato il mondo, ha salvato la nostra specie, ha salvato le nostre famiglie, e la mano è l'artefice di tutti gli strumenti. Ma la mano c'ha una cosa che non hanno gli strumenti: fa le carezze, e le carezze vanno in un luogo del nostro corpo nascosto che, quando viene accarezzato, fa risollevare qualsiasi persona da qualsiasi avversità. Senta, i bambini lo sanno, ecco, è magica la carezza. Ma a proposito di bambini, è normale far correre fin da piccolissimi? Beh, io credo che le favole ci hanno sempre esaltato il mito della fanciullezza, il genio dell'infanzia, quindi perché non fare giocare i bambini in quell'età dove sono magici e sono geniali? Quindi secondo me i bambini hanno questo. Ecco, però la sicurezza. Devono entrare piano piano però nella competizione. Prima devono partire lasciandogli l'illusione del gioco. Gioco e l'illusione. Ci sono regole che io devo evadere. Sì. Ecco, Valentino deve evadere molte regole perché deve arrivare a battere e beffare Marquez. Sarà dura, è bella, bella. Senta, dottor Costa, ma c'è ancora un problema legato alla sicurezza nella MotoGP? Dunque, tanti complimenti a quelli che hanno cambiato il teatro delle corse allontanando gli ostacoli. Sì, se noi allontaniamo gli ostacoli, se ci sono le vie di fuga, ci sono dei prati con delle margherite, si va molto bene. Andrebbe bene anche nei circuiti tutti i giorni, le strade e le autostrade. Però ci rimane qualcosa che è fatalità, cioè l'ostacolo che tu non potrai mai togliere, il tuo compagno che ti può investire, la moto che ti può coinvolgere in un tragico incidente come è successo per Marco Simoncelli, che ricordo con grande amore, anche se so che vivo immortale nella gloria nel cuore di tutti. Senta, ma qual è il circuito più pericoloso? Ma a questo punto, dette queste cose, il circuito più pericoloso è quello in cui può capitare che il tuo avversario ti colpisca, e quindi sono tutti diventati pericolosi nel momento che sono diventati sicuri. Senta, certo, ma adesso che non c'è più lei, la clinica mobile è sempre la stessa? La clinica mobile è sempre la stessa, perché la clinica mobile non è un personaggio, è un simbolo, però è un simbolo che gli manca un po' del dottor Costa. Senta, dottor Costa, me lo permetto. Glielo permetto, perché so che è vero. Senta, ma McDuan dice, ha sempre, sto su Marquez, che Marquez ha portato il motociclismo a un livello superiore. Ecco, ma questo superiore dov'è? Lei mi ha detto della sua follia oltre il limite, ma c'è anche un superiore tecnico? Il superiore tecnico è legato al fatto della sua, diciamo così, mistica unione con la moto. Marquez ha detto: quando guido una moto che ha un assetto perfetto, che cioè non si muove, io non riesco a guidare, ho bisogno di una moto che si muova molto, perché così mi riesco a unire con lei, divento qualcosa con lei, e insieme riesco a fare cose che nella perfezione non riesco a fare. Cioè preferisce una moto perfetta che perfetta. Esatto, Lorenzo è perfetto quando è in forma, nella sua perfezione è quasi delle volte imbattibile, ma rimane fermo lì, la perfezione lo fa morire lì, lo fa, diciamo, limitato lì. Marquez va oltre questo, e per andare oltre ha bisogno di avere... Crea la perfezione e l'imperfezione. Bravo, perfetto. E lo fa legandosi alla moto quando la moto è imperfetta. E Rossi? E Rossi, che siccome Rossi ha i 35 anni ed è stato la leggenda che è stato... Perché c'è stato? Abbiamo detto che può vincere. Io lo dico subito. Ha capito che ci sono tutte queste cose, quindi vedrai che si lamenterà meno della moto, perché saprà che con la moto insieme anche loro potranno fare magia come Marco. Cioè andrà a cercare la follia dell'oltre anche lui l'anno avendo prossimo. Il vantaggio che la sua saggezza legata all'età misurerà subito per non avere quelli che sono i castighi degli dei quando tu sei arrogante nell'andare oltre i limiti. Questo è il segreto. È sottilissimo. Senta, è sottilissimo fra chi ci riuscirà a essere il grande e quello che invece non ci riuscirà. Le faccio un'ultima domanda: ma lei in Dio ci crede? Sì, ci credo, solo che un po'... dunque, sono cattolico, ci credo, però gli ho cambiato un po' casa. Cioè, in questo mondo dove si cambiano le case, ci sono tutte queste cose, io ho cercato di cambiare un po' casa. L'abbiamo sempre messo là nel cielo, lontano. lontano, secolarizzato, c'è un inizio della vita, come dice la Bibbia, poi ci sarà una fine, la resurrezione, tutto quello. Beh, facciamo una cosa, incontriamolo prima, mettiamolo dentro al cuore di tutti gli esseri umani, mettiamolo dentro a quei frammenti di paradiso perduto che mi fanno vedere questi piloti quando fanno magie, come Marquez, Valentino e gli altri. E quindi Dio credo che sia dentro di noi. Gli ho cambiato recinto, prima la religione era il suo recinto, adesso la religione è l'umanità intera che lo abbraccia e lo deve tenere dentro di sé. Solo così affronteranno qualsiasi avversità di questa vita, possono nascere, vivere, come dice Minoli, e morire con dignità. Se un'ultimissimissima domanda, ma lei in moto ci va? Mai andato. Ma per finire, una vittoria drammatica, fantastica, di Valentino Rossi. Avete cuore di resistere altri 20 secondi, arriviamo alla staccata là in fondo. Chino Frenna stavolta non lo fa all'esterno, rischia la riga bianca, attenzione, adesso dentro rischiano la sportellata, Rosso davanti e Rossi dietro, sta più stretto, devi marcargli la coda, dai Valentino addosso, su è durissima, quasi impossibile, durissima, oh mamma mia, e c'è spazio qui, troppo vicino. Bravi, ce la fa, è entrato, non ci credo, non ci posso credere, no, cosa ha fatto, non ci posso credere, è impossibile, bravo, Rossi c'è, che gara, un mondo di matti, dottor Costa, per chiudere, fantastico. Il mondo della follia, come gli ho detto prima, è la vera saggezza, ma dove si trova la felicità? Grazie, dottor Costa. Grazie a voi.